rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Il grande tema di settimana prossima, non di questa settimana, sarà la Grecia. Lo dico perché in Grecia finalmente si vota domani, quindi noi non siamo attrezzati appunto a commentare, ma forse è meglio far passare qualche giorno. Settimana prossima vedremo appunto cosa è successo, ma soprattutto quali sono i commenti. Quindi Grecia a parte, di cui abbiamo accennato settimana scorsa, invece questa settimana ci occupiamo di altre cose. Ho trovato un interessante articolo di una blogger romena, Alexandra Spanu, e l'ho trovato grazie al sito che sapete mai abbastanza ringrazio, ma forse mai abbastanza cito, che è voxeurope.eu, che fa quest'opera di monitoraggio, un po' come facciamo noi, della stampa europea su questioni europee. Questa blogger, che è una giornalista e traduttrice romena giovane, nata nel 1983, è una producer presso una TV nazionale romena, e ha scritto questo post, che poi è stato ripreso da Vox Europe, sulla questione della corruzione in Romania, che è molto alta, come in tanti paesi europei, come purtroppo sappiamo anche in paesi, anche in Italia. Il titolo del post è "Dove sono i sindaci di una volta?" E quello che scrive Alexandra Spanu è: "Se la si cerca a Bucarest, sembra che la risposta sia in carcere o agli arresti domiciliari in attesa di processo. Anche se l'ultimo rapporto della Commissione Europea sui progressi della Romania mostrava che il paese era sulla buona strada per ciò che riguarda la lotta alla corruzione, i casi ultimamente sembrano moltiplicarsi, soprattutto nelle amministrazioni locali." E ci ricorda Alexandra Spanu che l'ultimo scandalo che scuote il paese coinvolge niente meno che il sindaco di Bucarest, che è un medico, Sorin Oprescu, stato messo in detenzione preventiva per un periodo di 30 giorni per il sospetto che abbia preso parte a un giro di tangenti. Nel sito poi trovate anche la foto del momento in cui è stato arrestato. Passiamo però all'altra grande questione, che è quella dei migranti, e sempre su voxeurope.eu c'è una bellissima mappa che proprio nei giorni in cui si discute dei progetti di redistribuzione dei rifugiati, sapete il piano Juncker, che però è molto lontano dall'essere approvato e nella forma in cui è stato presentato dal Presidente della Commissione Europea, ecco, proprio in questi giorni c'è questa mappa interattiva che mostra la ridistribuzione nel periodo compreso tra gennaio e giugno. Tra l'altro la mappa è una di quelle che usa la tecnica della distorsione, così che fa vedere distorce appunto in piccolo o in grande a seconda del numero a cui corrisponde qualche cosa, e quindi la mappa è sicuramente non una mappa geografica, è una mappa in cui lo vedrete se andate a vedere il sito. La Gran Bretagna per esempio appare piccola, molto più piccola di quella, è molto più piccola dell'Italia. Perché? Perché ha assorbito meno migranti appunto dell'Italia. Passiamo a un argomento economico, ma sulla migrazione torneremo prima della fine della rassegna, e passiamo a un giornale tedesco, la Süddeutsche Zeitung, che era forse qualche tempo che non citavamo. Qui la questione è quella delle riforme, le riforme in particolare, ne abbiamo parlato tante volte, che sono sul tavolo, delle riforme anche del governo economico, della BCE. È vero, abbiamo una banca centrale, la Banca Centrale Europea, abbiamo un governatore, Mario Draghi, che ha fatto molto per far ripartire l'economia dell'Eurozona, al di là delle politiche economiche e monetarie dei singoli paesi, ma si potrebbero fare molte altre riforme, a partire appunto da quelle che consentissero una vera e propria politica monetaria comune. E allora la Süddeutsche Zeitung si chiede: questa scelta di prendere tempo per consentire alla politica di mettere in atto le riforme, un'intervista la dà Jens Weidmann, che è presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, in un'intervista apparsa appunto sulla Süddeutsche Zeitung, e risponde sostanzialmente: non possiamo usare la politica monetaria per estorcere le misure politiche consone alle nostre convinzioni. Si tratta di misure che devono essere deliberate dai governi e dai parlamenti e di cui essi stessi devono assumersi la responsabilità. E non è neanche nostro compito, dice sempre Weidmann, quello di prendere tempo per agevolare la classe politica. Insomma, un rapporto difficile, ma da sempre, non da oggi e non da quando esiste l'Unione Europea, quello tra gli economisti o le istituzioni economiche in generale e i politici puri. A proposito di migrazione, per questo vi dicevo, abbiamo lasciato solo temporaneamente l'argomento, sempre sulla Süddeutsche Zeitung, il presidente della Bundesbank ha parlato parlato anche di immigrazione. Forse lo ricorderete, qualche settimana fa avevamo citato il parere del presidente della Confindustria tedesca, che diceva, forse ancora prima della presa di posizione di Angela Merkel e dell'apertura dell'aumento del numero dei rifugiati che la Germania si dice disposta ad accogliere. Ecco, in quell'occasione il presidente della Confindustria aveva detto: ricordiamoci sempre che siamo, la Germania ma in generale l'Europa, un paese, un'area a crescita demografica quasi negativa, e che gli immigrati, in questo caso, come è stato in passato nella storia per tanti altri paesi, sono una grande risorsa anche economica. Su questo tema torna sulla Süddeutsche Zeitung il presidente della Bundesbank Jens Weidmann e dice: una gestione adeguata dell'afflusso dei profughi richiederà non pochi sforzi da parte della Germania, ma il flusso migratorio racchiude anche tante opportunità, tra le quali appunto la prima è quella di vedere gli immigrati, in particolare quelli giovani, come forza lavoro e anche come, in prospettiva, coloro che pagheranno le pensioni, per esempio con i loro contributi, a chi sta lavorando ora o comunque sta andando in pensione, sostanzialmente a una popolazione che sta invecchiando. Un'altra opinione che riguarda sempre l'immigrazione, in particolare quel fronte ungherese che così tante polemiche ha scatenato, sulle Figaro è apparsa un'intervista del premier ungherese Viktor Orban, che ha proposto questa idea di utilizzare i fondi strutturali europei come oggetto, va bene, ma se vengono utilizzati come oggetto di ricatto, questo è profondamente ingiusto. Nei giorni precedenti, infatti, all'intervista, il governo di Berlino aveva paventato l'ipotesi di tagliare i sussidi dell'Unione Europea, quindi per esempio i fondi strutturali, a quei paesi che si oppongono alle quote di rifugiati, tra i quali c'è, appunto, lo sappiamo, l'Ungheria. Il disaccordo, dice Orban in questa intervista, non è sulle quote, ma sulle quote obbligatorie, che sono contrarie agli interessi vitali delle nazioni. Farò tutto il possibile per oppormi a questo. Per quanto riguarda invece i paesi, più che i paesi, le città in prima linea, nel nostro caso, nel caso dell'Italia, sappiamo che è la Sicilia, in particolare i paesi dove i porti, dove molti dei barconi di chi sceglie quindi il corridoio attraverso il Mediterraneo, non sappiamo ancora per quanto, perché è una scelta che viene fatta soprattutto in estate, poi si passa soprattutto al corridoio balcanico, però sicuramente per tutta l'estate e probabilmente ancora per il mese di settembre, forse anche più in là, visto che è stata un'estate molto calda e le acque sono ancora molto calde. Quindi quei paesi, in Italia appunto soprattutto la Sicilia, che sono i veri avamposti e sono quelli che ricevono gli immigrati. Allora su El País c'è stato addirittura un appello di tantissimi sindaci di queste città, tra cui il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, per spiegare che queste città sono veramente, questi paesi a volte sono i primi a dover essere aiutati, a dover essere compresi, a dover ricevere, secondo tutti questi sindaci, degli aiuti straordinari da parte sicuramente dello Stato a cui appartengono, quindi l'Italia per esempio nel caso di Lampedusa, ma anche a livello europeo. Se si decidesse appunto di incrementare o ridistribuire gli aiuti anche all'interno di politiche già decise, di organismi già attivi come Frontex, questi paesi di frontiera sono i primi ad aver bisogno di questo aiuto anche economico, con il quale poi naturalmente si spera, e purtroppo in Italia ci sono stati dei casi di malaffare, si spera che questi soldi vengano utilizzati bene, ma i fondi servono anche proprio per la prima accoglienza. Parlavamo della Grecia, delle elezioni in Grecia. A proposito di Grecia, ho trovato un articolo molto interessante ripubblicato da Internazionale, un articolo che in realtà è apparso sulla Zeit, forse il più autorevole, anche innovativo settimanale tedesco. Questo articolo di Felix Rohrbeck, intitolato "Ricetta sbagliata", parte dal fatto che in Grecia mancano le medicine, il sistema sanitario greco è entrato in profondissima crisi per via della crisi economica generale, però per esempio in Germania vengono importati dei farmaci greci, e quindi in questo articolo questo giornalista ha seguito quello che viene definito il tortuoso percorso di una scatola di compresse attraverso l'Europa. Parlavamo di Ungheria, ecco, sempre su Internazionale, Nathalie Nugayed, che è una giornalista francese, è stata corrispondente di Liberazione della BBC dalla Cecoslovacchia, cerca di spiegare, o comunque spiega perché secondo lei l'Europa dell'Est non vuole i rifugiati. Sapete, in molti ci siamo stupiti forse di questa reazione dell'Ungheria, ma anche della Polonia, ma anche della Slovacchia, questa fiera opposizione appunto a queste quote aumentate. Secondo Nathalie Nugayed appunto non, il razzismo e la xenofobia non esistono soltanto all'est, eppure dalla Polonia alla Bulgaria sembra essersi formato un blocco contro ogni tipo di generosità verso i migranti. E allora vi leggo l'ultima parte di questo articolo: la situazione della stampa in Europa centrale e orientale si sta deteriorando in modo preoccupante, quindi anche il modo di raccontare queste opinioni. Negli ultimi anni i mezzi di informazione sono stati surclassati dai siti populisti e eurofobici come la radio online, che aveva organizzato la manifestazione di Bratislava di cui appunto si è parlato. Quindi diciamo un parere di una giornalista esperta di quei paesi, che spiega come l'opinione pubblica sia anche facilmente manipolabile se appunto viene tolta la libertà di stampa. Era l'ultima segnalazione che purtroppo riesco a farvi per oggi. Vi ripeto, sul sito voxeurope.eu tantissimi spunti, e poi anche su Internazionale come ogni settimana. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.